che notti chiara chiara, che a durie tramontana, e nu grillo canta canta, ai ai ai ai. Ringraziatia signori, picchi mi lassi vivirà così. Tu che mi fai saziare d'acqua fresca, quando spacca la sulagna, tu che mi fai trovare ligna sicca, quando bianchi la montagna. Ringrazio a te, signori, picchi mi lassi vivirà così. Che vento esita fina, salato da lumari, che lontano malu sento, ai ai. Grazie a te, signori, picchi mi lassi vivirà così. Tu cali picurelli dai pastura, e li tugna la tunnara. Fai da compagno carrettieri già la notte scura scura. Ringrazio a te, signori, picchi mi lassi vivirà così. Tu che m'hai regalato questa vita con la gioia e i dolori, ringrazio a te, signori, e fammi sempre vivere così. E fammi sempre vivere.